Siamo in collegamento con Fanù Torracinta e Gian Giacomo Rosso dei appunto Fanù Torracinta Trio. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Allora, vi facciamo subito la prima domanda. Quando e come si è formato il vostro trio? Parlateci un po' del vostro gruppo. Sì, allora, io sono Gian Giacomo Rosso e sono residente a Torino e suono questa musica, che è la musica appunto jazz manouche, da qualche anno. E girando un po' e cercando un po' sonorità nuove ho conosciuto la musica di Fanù, che è questo ragazzo che viene dalla Corsica, e ho scoperto che in realtà la Corsica è veramente vicino all'Italia, sono 4 ore di nave da Bastia a Livorno, e allora ho pensato di invitarlo qua in Italia per dei concerti. Lui non era mai venuto in Italia e quindi ha accettato, insomma, ed è da giugno di quest'anno che stiamo collaborando, insomma, facendo un po' di concerti in giro. E siamo stati a dicembre a Pennabilli, quindi sempre qua vicino in zona, e poi adesso arriviamo da Milano, Torino, e stasera suoneremo a Bologna. Siamo molto contenti, al Binario 69. Ecco, voi suonate jazz manouche, come vi siete avvicinati a questo genere musicale e cosa amate di più di questa musica? Allora, noi ci siamo, almeno io mi sono avvicinato a questo genere musicale qualche anno fa, perché ho scoperto la musica di Django Reinhardt, che è un po' il padre fondatore di questa musica, ascoltandola per caso durante una giornata. Un mio amico mi ha passato il disco e io mi sono subito innamorato di questa sonorità. È un genere molto più europeo. Io, suonando la chitarra, ho sempre ascoltato anche molto jazz, però la chitarra nel jazz secondo me non ha mai avuto, almeno in Europa, un riscontro così grande come quella di Django, e quindi mi sono innamorato di questo genere. Fanù è un ragazzo che invece la suona da molto molto più tempo di me, nel senso che fin da quando aveva, mi ha detto, 14 anni ha iniziato a suonarla, e diciamo che la chitarra in Francia ha la chitarra acustica proprio ha una cultura a sé, quindi molto più importante di quella in Italia, insomma, è proprio una musica francese, diciamo così. Certo, e questa sera suonerete al Binario 69 qui a Bologna, e oltre a pezzi tradizionali appunto del jazz manouche, ci proporrete degli inediti? Sì, allora faremo dei brani che appunto appartengono alla tradizione di Django, quindi brani di jazz manouche, e poi faremo anche dei brani che ha scritto Fanù. Magari adesso ve lo passo e vi dice il nome dei brani e certo. Cosa faremo. Ciao. Ciao Fanù. Ciao, piacere. Piacere nostro. Ok, allora io sono molto felice di essere in Italia per un piccolo tour. Il mio amico Gian Giacomo mi riceve come un re, mi porta dappertutto e sono ricevuto sempre. Come parlo italiano, è vero che è molto semplice di essere bene con voi. Ecco. grazie. E, allora, chiedevamo, come si chiamano i tuoi brani, quelli che hai scritto tu? Allora, a maggior parte sì, hanno un nome corso, perché io sono dell'isola, sono di Bastia, in Corsica. Certo. E ho scritto, allora, non tutti non hanno un nome, perché sono sempre in cerca di composizione, ma quelli che sono stati già registrati si chiamano Vadim, vuol dire l'autunno in corso. Ho fatto anche una valsa che si chiama Valsa Corsa, e anche molte cose, pezzi che si chiamano Bujura, vuol dire qualcosa di un po' nero, una situazione un po' nero. E ecco, così non ho non li ho tutti in mente, ma ecco, avete un'idea del mio lavoro. Certo. Infatti, bravo. Ma oltre, diciamo, il concerto di stasera, avete altre date in programma, altri concerti a breve? Allora, stasera si finisce il giro. Abbiamo suonato quando? Abbiamo suonato venerdì a Torino al Molo di Lilith, sabato alla Buca di San Vincenzo a Milano, domenica al Barcavu a Torino, lunedì non abbiamo suonato, martedì ieri abbiamo suonato al Mad Dog a Torino, e stasera suoniamo al Binario 69 e chiudiamo il giro stasera. È l'ultima tappa, quindi. Ecco. Allora, noi ringraziamo Gian Giacomo Rosso e Fanu Torracinta per essere stati ai nostri microfoni. Vi invitiamo a partecipare al concerto di stasera al Binario 69, appunto del Fanu Torracinta Trio, e grazie ancora, ragazzi. Grazie.